Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Permettetemi in questa occasione di rivolgere un pensiero e fare gli auguri alla senatrice Liliana Segre, che oggi compie 90 anni. Una donna straordinaria che ha dedicato la vita a trasmettere memoria, a lottare contro odio e violenza, un esempio di coraggio e di impegno costante portato avanti dentro e fuori le istituzioni. La nostra comunità le deve senza dubbio molto. Questo è l'omaggio che il presidente della Camera Fico oggi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, ha fatto alla senatrice a vita Liliana Segre. Sapete che vissuta nei campi di concentramento da bambina e che ha dedicato la sua vita, insomma, alla memoria dell'Olocausto, a sensibilizzare i ragazzi, gli studenti. È stata anche nominata senatrice a vita e sapete che poi qualche mese fa era anche stata oggetto di minacce di morte, di persecuzioni, di pedinamenti, eccetera, tanto che avevano dovuto metterle la scorta. Poi c'era stato tutto questo affrettarsi da parte di tanti comuni, città, eccetera, a darle la cittadinanza onoraria. Insomma, compie 90 anni, quindi fibra forte nonostante tutto quello che ha vissuto, e per fortuna. Parleremo, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, ancora di scuola, visto che siamo veramente agli sgoccioli, siamo a meno 4, lunedì si parte ufficialmente, anche se tanti, lo ripeto, hanno aperto prima, qualcuno aprirà dopo, per l'autonomia delle regioni, eccetera, per quanto riguarda la scuola, e già ci sono, diciamo, un clima molto caldo, a parte tutte le incertezze, le preoccupazioni, l'impegno del governo. Gli studenti, l'Unione Studenti ha già annunciato una manifestazione di piazza il 25 e 26 settembre. E poi c'è anche una polemica nella regione Piemonte, perché anche se il governo ha deciso che sono le famiglie a casa che devono rilevare la temperatura ai ragazzi e ai figli prima di andare a scuola, il presidente della regione Piemonte, Cirio, che sarà ospite qui a Effetto Notte, ha deciso invece che sarà la scuola, che a scuola, quando arriveranno i ragazzi, verrà misurata la temperatura. Quindi questo, tra le varie ordinanze diverse delle varie regioni, di varie scuole, eccetera, eccetera, varie città. Dopodiché torneremo naturalmente sull'efferato omicidio di Willy, forse ci sono anche altri indagati. Poi Stati Uniti, perché Trump è, diciamo, coinvolto in un altro scandalo, e ha fatto delle rivelazioni a un giornalista storico, leggendario, quello che fece dimettere Nixon, e quindi ci collegheremo con gli Stati Uniti per farci raccontare nel dettaglio. Intanto, per i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte, come sempre, se volete, oppure i WhatsApp al 349-238-6666, sempre naturalmente per commentare le notizie principali, quelle che vi racconterò e poi che approfondirò dopo con gli ospiti. Allora partiamo. L'epidemia di coronavirus in Italia, aumentano i contagi, quasi 1.600 in 24 ore, 10 i morti. È positivo anche il presidente del Napoli, De Laurentiis. Ieri l'assemblea di Lega senza mascherina e scatta l'isolamento per molti. L'ipotesi di quarantena a 10 giorni anziché 14 sarà martedì all'esame del Comitato Tecnico Scientifico. In Francia quasi 10.000 casi in 24 ore. Scuola, volata finale verso la riapertura, gli studenti annunciano una manifestazione di piazza il 25 e 26 settembre. In Piemonte intanto polemiche per l'ordinanza del presidente Cirio, che sarà ospite di Effetto Notte, di far misurare la temperatura dei ragazzi a scuola. L'omicidio di Willy, probabilmente ci sono nuovi indagati. La famiglia per il funerale sabato chiede di indossare una maglia bianca come simbolo di purezza e giovinezza. Stati Uniti, le rivelazioni di Trump a un giornalista, Woodward, sul virus, e poi dice: abbiamo un'arma senza precedenti. I consumi ai tempi della pandemia, niente viaggi, spesa online e il grande ritorno dei cibi fatti in casa. Partiamo quindi dall'epidemia in Italia, ancora in aumento i contagi, come avete sentito, nel nostro paese. Sono 1.597 i casi registrati nelle ultime 24 ore, per un totale, finora dall'inizio della pandemia, di 283.180. Dai dati del Ministero della Salute emerge invece un calo delle vittime, 10 in un giorno, mentre ieri erano 14. Il totale complessivo, quindi, dei morti dall'inizio dell'epidemia in Italia è di 35.587. Positivo anche il presidente del Napoli e anche della Lega di Serie A, Aurelio De Laurentiis, che ieri all'assemblea dei club non avrebbe indossato la mascherina in diversi momenti della giornata. La positività di De Laurentiis al Covid agita il calcio italiano non senza polemiche. Per i colleghi presenti all'Assemblea di Milano sono scattati i controlli. Il presidente della Lega d'Alpino, Gio Barone Joseph, commisso per la Fiorentina, Claudio Fenucci del Bologna, Vigorito del Benevento e il numero uno della Sampdoria, Ferrero, sono in isolamento. Tampone precauzionale per Scaroni, applicazione dei protocolli per Agnelli e Cairo, mentre la delegazione dell'Inter fa sapere di non essere stata in contatto con De Laurentiis, il quale, ora con sintomi da Covid che potrebbe essere sottoposto a valutazione ospedaliera, precisa di non essersi messo in viaggio per Milano con un malessere in corso. Nessuno dei sei controlli della febbre avuto in giornata ha segnalato irregolarità e la ricostruzione che viene da Napoli. De Laurentiis avrebbe accusato problemi di pancia una volta in assemblea e sarebbe poi stato raggiunto dopo dalla notizia della positività di un tampone effettuato nei giorni scorsi in via autonoma e non perché sospetto di Covid. A lui sono arrivati gli auguri del mondo del calcio e dello sport, ma anche qualche distinguo. Qualcosa non ha funzionato, sono le parole del numero uno del CONI, Giovanni Malagò. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'ipotesi di una riduzione della quarantena da 14 a 10 giorni sarà valutata per quanto riguarda l'Italia dal Comitato Tecnico Scientifico nella riunione di martedì prossimo. In attesa delle valutazioni degli esperti, la linea del Ministero della Salute resterebbe comunque quella data dettata dalla cautela, la misura, cioè 14 giorni, la misura che è stata proposta in Francia per 7 giorni, ma che ancora non è stata adottata, sarà valutata per l'Italia con un passaggio inferiore probabilmente dai 14 ai 10 giorni. Intanto il Serum Institute of India annuncia la sospensione in India dei test clinici del vaccino Covishield elaborato nei laboratori di Pune in collaborazione con lo Jenner Institute dell'Università di Oxford e AstraZeneca, dopo che la farmaceutica li ha bloccati martedì a causa di una reazione negativa in un volontario. Malgrado questa battuta d'arresto, il vaccino potrebbe ancora essere disponibile sul mercato a fine anno o all'inizio del 2021, precisa Pascal Soriot, amministratore delegato di AstraZeneca. I tempi entro i quali un comitato di esperti deve stabilire se la reazione sospetta sia stata determinata dal vaccino possono variare da una settimana a 3 mesi, così ha specificato il presidente del laboratorio di Pomezia di RBM, Piero Di Lorenzo. E siamo alla scuola. In Piemonte l'ufficio scolastico regionale critica l'ordinanza del presidente della regione che impone alle scuole di misurare la temperatura e alle famiglie di autocertificare la rilevazione a casa. Tardiva e impropria questa decisione, secondo il direttore generale Fabrizio Manca dell'ufficio scolastico, per l'appunto, ma per chiarire sarà ospite qui a Effetto Notte tra poco il presidente del Piemonte Alberto Cirio. Intanto il 25 e 26 settembre studenti in piazza preoccupati da una riapertura che presenta ancora molte incertezze, come spiega Alessandro Personè dell'Unione degli Studenti. Assolutamente, questo perché noi vogliamo tornare in classe, vogliamo la didattica in presenza, la vogliamo in sicurezza. Invece il piano scuola della ministra Azzolina non è stato capace di dare delle risposte vere a nessuno, anzi è stato un libro di tutti. Ogni scuola deve capire per conto suo come riaprire, e questo vuol dire mettere in difficoltà docenti, studenti e presidi. Adesso all'estero, il presidente americano Trump sapeva che il coronavirus era 5 volte più fatale di una forte influenza, ma ha minimizzato per non creare panico. Lo ammette lo stesso presidente americano dopo l'uscita del libro di Bob Woodward. Ha mentito agli americani, lo attacca il candidato democratico Biden, ma Trump replica: aveva le mie dichiarazioni il giornalista da molti mesi, se pensava fossero così sbagliate o pericolose, perché non le ha immediatamente rese pubbliche per salvare vite umane? Non aveva un obbligo forse a farlo? E rivela che, dice, abbiamo noi Stati Uniti un'arma che nessuno ha mai avuto, qualcosa di cui Putin e Xi Jinping non hanno mai saputo. E poi ci collegheremo per capire qualcosa di più di questo ulteriore scandalo, di queste rivelazioni, con gli Stati Uniti. Intanto duro scontro tra Europa e Gran Bretagna su Brexit. La Commissione Europea ha concesso al Regno Unito fino alla fine del mese per ritirare il disegno di legge che rimette in discussione alcuni impegni su Brexit, sottolineando che l'Unione Europea non esiterà a ricorrere ad azioni legali. Da parte sua, il governo britannico difende il progetto di legge sostenendo che il Parlamento è sovrano in materia di leggi nazionali. E il tema dei migranti approda al vertice Euromed con il presidente del Consiglio Conte. Un vertice, quello di Ajaccio, in Corsica, all'indomani del vasto incendio nel campo profughi di Lesbo, in Grecia. Un'intesa franco-tedesca per accogliere 400 minori non accompagnati dal campo di Moria a Lesbo è stata annunciata dalla cancelliera tedesca Merkel e dal presidente francese Macron dopo gli incendi che hanno devastato il centro. L'idea di Parigi e Berlino è coinvolgere in questa operazione di ricollocamento dei minori anche altri paesi europei per togliere pressione sui centri di accoglienza ellenici. Nel campo di Moria erano presenti circa 12.000 persone su una capacità prevista di 2.800. Il numero dei minori da ricollocare è comunque indicativo nelle intenzioni di Merkel e Macron e potrebbe ancora variare. La Germania ha già accolto 460 minori non accompagnati o malati insieme ai loro genitori e sta pianificando di prenderne altri. Berlino, Parigi e altri paesi sono pronti a fare qualcosa. Si tratta di sviluppi positivi, ha commentato il vice cancelliere tedesco Scholz. La pressione si concentra soprattutto sul ministro dell'interno Seehofer del partito conservatore bavarese CSU, meno incline a concessioni in materia di migranti. A lui hanno scritto 16 deputati perorando la causa dell'accoglienza di 5.000 rifugiati in Europa o, in assenza di accordi, anche nella sola Germania. Il tema migranti figura anche al centro dei lavori del vertice Euromed in programma ad Ajaccio tra Francia, Italia e gli altri paesi del sud del continente. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In Cile, scienziati forensi internazionali cercheranno di rintracciare DNA di desaparecidos nelle fosse clandestine nascoste a Colonia Dignidad, insediamento fondato nel 1961 da immigrati tedeschi guidati dall'ex militare nazista Paul Schäfer e utilizzato come campo di detenzione e sparizione per gli oppositori della dittatura cilena tra il 1973 e il 1990. Cinque scienziati di livello internazionale lavoreranno insieme per valutare la possibilità scientifica di identificare persone detenute e fatte sparire dal regime di Augusto Pinochet in complicità con i gerarchi tedeschi dell'enclave. Di nuovo in Italia con l'economia, qualche segnale di ottimismo arriva dai dati Istat sulla produzione industriale, aumentata a luglio del 7,4% rispetto a giugno, mentre diminuita dell'8% rispetto a luglio 2019. Quanto all'export, secondo il rapporto SACE, tornerà a salire con una ripresa relativamente rapida già dal 2021. Ed è stato presentato il rapporto Consumi Coop 2020, l'ormai tradizionale studio annuale che fotografa stili di vita e di consumo degli italiani. Nel periodo che segna la più grande recessione dal secondo dopoguerra, gli italiani restano i più pessimisti d'Europa. Il 38% pensa di dover far fronte nel 2021 a seri problemi economici. Questa è la fotografia del rapporto Consumi Coop 2020, secondo cui il Covid ha agito sui consumi come una macchina del tempo. Indietro di 25-30 anni sul totale consumi, soprattutto su quelli fuori casa e per i viaggi, bisogna tornare addirittura al 1970. 75. Avanti di 10-15 invece sulla digitalizzazione con la spesa online in crescita del 132% nonostante il gap di prezzo più 25%, l'anno scorso era il 35% rispetto a quella fisica. Alla spesa alimentare gli italiani non rinunciano, ma il carrello cambia profondamente. Albino Russo, direttore generale ANCC Coop. Un cibo homemade, quindi la forte esplosione dell'ingredientistica e la diminuzione dei cibi già pronti. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi la cronaca, la morte a Colleferro di Willy Duarte. Potrebbero arrivare presto nuove iscrizioni nel registro degli indagati, poi ne parleremo. I viaggi di Radio 24. Città in movimento, anche oggi andiamo a vedere come ci si sposta nelle città italiane tra autobus, metropolitane e tram per capire chi si muove e come si muove. E oggi andiamo a Napoli con Laura Vigiano. Stiamo usando comunque le precauzioni giuste, quindi gli autobus che prendiamo noi non sono tanto affollati ancora. Diciamo che non abbiamo timore per ora. Speriamo nel buon senso delle persone. Prendiamo tutte le precauzioni possibili, però un po' di preoccupazione c'è sempre. I controlli? Ci sono gli avvisi, ma non ho visto molto personale che si prodiga per farle indossare. Il trasporto marittimo invece, no, rispetto a quello cittadino? Quello marittimo sono molto fiscali, cioè, ti misurano la temperatura prima di salire a bordo e verificano continuamente anche i marinai che tu abbia sempre correttamente la mascherina indossata. Su tutta la tratta, da quando si sale fino a quando si scende, mascherina tutti. E con il buon senso cerchiamo anche di distribuirci. Napoli viaggia ad un ritmo ancora lento e chi usa i trasporti pubblici usa anche le mascherine in genere. Per quanto possibile resta distanziato dagli altri, molti preferiscono utilizzare un mezzo di trasporto proprio, ma il traffico in centro non appare caotico come un tempo, complice anche lo smart working. Di fatto, tranne che in alcune ore e su alcune tratte, la percentuale di riduzione dei flussi di utenti è molto alta, tocca anche quota 70%. Il direttore generale dell'ANM Narducci. Abbiamo rimodulato i programmi di esercizio per favorire le direttrici maggiormente cariche. Viceversa l'azienda, chiaramente non avendo una disponibilità infinita di mezzi, autobus e di conducenti, ha dovuto penalizzare alcune aree della città in termini di servizio. Intanto l'azienda punta per la prossima settimana ad aumentare la disponibilità dei posti a sedere fino all'80%. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. È morto Franco Maria Ricci oggi nella sua casa a Fontanellato in provincia di Parma, editore, collezionista, famoso per aver pubblicato negli anni 80 la rivista FMR, conosciuta in tutto il mondo e aver creato il labirinto dell'Amazzone a Fontanellato. Aveva 82 anni, era nato a Parma il 2 dicembre 1937. E poi una polemica che riguarda il Festival della Bellezza, che è senza donne, travolto dalle polemiche quest'anno all'Arena di Verona da venerdì 11 settembre per la mancanza appunto di donne nel programma. Apre Alessandro Baricco con una prolusione sul tempo e sull'amore. L'Arena Agorà con lui al piano Gloria Campaner, l'unica donna in tutto il programma del festival fino al 19 settembre, dedicato a Eros e bellezza, assenza vistosa dell'universo femminile che ha scatenato una serie di violente polemiche sul web, con la presa di posizione ufficiale di Giulia, che è l'associazione di giornaliste che ha scritto il festival, ma anche di molte intellettuali, da Alba Donati a Michela Murgia, oltre a pagine social come quella di Facebook, hashtag Boycott Manels, da cui l'onda di contestazione è partita generando l'hashtag Tutti Maschi. Ha risposto l'organizzatrice, si occupa del coordinamento del festival, Alessandra Zecchini, dicendo che per via del Covid, insomma, era stato complicato l'organizzazione di questo festival, però guarda che svista, proprio mi sono dimenticato completamente delle donne in un festival poi dedicato alla bellezza, all'eros e all'amore. Bene, direi di chiudere qui questa prima parte della puntata, in modo che cominciamo subito ad approfondire gli argomenti con gli ospiti tra pochissimo. Pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri messaggi, oppure per i WhatsApp 349-238-6666. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Le notizie le avete sentite in sintesi, 60 minuti ricchissimi come sempre poi di aggiornamenti, di approfondimenti con gli ospiti e di anche i vostri messaggi, i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte e al 349-238-6666. Allora, vedo qualcuno che ancora torna sulla questione delle mascherine, dice, hanno detto che, hanno, che, di, che diffonderanno, che distribuiranno gratuitamente, ieri c'è stata la conferenza stampa di Conte che fra le tante cose ha detto anche ogni giorno 11 milioni di mascherine verranno distribuite, qualcuno dice che invece hanno chiesto a scuola di portarle. Allora, stavo vedendo adesso un aggiornamento del commissario straordinario Domenico Arcuri, commissario per l'emergenza, che dice nessuna scuola è senza mascherine chirurgiche. Lo afferma Domenico Arcuri sottolineando che tutti gli studenti, l'intero corpo docente e la totalità del personale non docente avranno ogni giorno una mascherina chirurgica gratuita. Quindi leggo le sue dichiarazioni. Adesso però parliamo di questo fatto di cronaca gravissimo di questi giorni che ha colpito molto e per fortuna l'opinione pubblica. Qui di fronte a Torre Picche c'è un ragazzo che è stato menato, per favore potete venire. Senta, subito, in che comune? Colleferro, di fronte a Torre Picche. Non lo so, la picca, di fronte alla vecchia Ivia. Aspetti, due di picche, mi ha detto, ma che cos'è, un locale? Sì, esatto. Sì, è un locale, è un bar. Aspetti che sto cercando l'indirizzo. A Colleferro. Colleferro, due di picche, sì. Sì. E questa, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, è la telefonata, la prima di 9 ad arrivare al 112 la notte in cui Willy Montero Duarte è stato picchiato selvaggiamente, addirittura ieri questi dettagli sconvolgenti che sono venuti fuori, qualcuno anche sarebbe saltato sul suo corpo, almeno in due di questi individui che adesso sono tra quelli arrestati e indagati. Insomma, questa telefonata che avete sentito appunto è avvenuta nella notte tra sabato e domenica, sabato 5 e domenica 6, erano le 3:25 e c'era Willy appunto già a terra che giaceva esanime. E poi sono arrivati questi soccorsi, ma insomma per lui, come sapete, non c'è stato niente da fare. Proseguono le indagini con appunto i dettagli sconcertanti che abbiamo sentito ieri, che vi raccontavo anche insieme al collega del Corriere della Sera. Saluto la nostra Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. Ciao Roberta, buonasera. Allora, i fratelli Bianchi, Marco e Gabriele, che sono due tra i quattro arrestati, continuano a respingere le accuse, anche se pare che abbiano degli alibi che parrebbero piuttosto improbabili, insomma, dalle cose addirittura parlano del fatto che stavano facendo sesso al cimitero, insomma, cose di questo tipo. E poi sappiamo che uno degli arrestati, uno dei quattro, alla fine aveva puntato il dito contro di loro dicendo sono loro che lo hanno picchiato così selvaggiamente, insomma, gli hanno dato i colpi finali, eccetera, ed è stato messo ai domiciliari. Adesso potrebbero esserci altri indagati in questa inchiesta, Raffaella? Eh sì, Roberta, perché qui ci sono di base due elementi, una dinamica che ancora non è del tutto chiara, e alla ricostruzione fatta dagli inquirenti che ha portato ai primi quattro arresti ci sono poi le diciamo ricostruzioni fatte dalla difesa degli indagati, che contesta questo tipo di ricostruzione e ha portato una serie di testimoni in senso contrario, e quindi dando una dinamica dei fatti che chiama in causa anche altre persone. In ballo rispetto a queste linee difensive e rispetto ad una dinamica di fatti che, come dicevamo, non è ancora del tutto chiara su che cosa è successo quella sera, sull'apprezzamento che avrebbe portato all'inizio di quella rissa, sul perché e sul momento in cui i due fratelli Bianchi sono stati chiamati. In ballo c'è in questo momento per gli indagati una prospettiva molto importante, cioè il timore che, come dicevamo già l'altro giorno, che l'accusa di omicidio preterintenzionale possa diventare quella di omicidio volontario. Per questo si sta in questi giorni tanto discutendo, anche sulla base delle versioni date dai testimoni, su che cosa sia successo nel momento in cui il ragazzo Willy era già a terra inerme, e su chi abbia dato a Willy i calci e i colpi che poi gli hanno costato la vita. C'è una testimone che ha raccontato infatti che uno dei due fratelli avrebbe dato questo colpo così forte al ragazzo quando era già a terra. L'avvocato dei due fratelli dice che la ricostruzione è completamente diversa e che invece loro erano soltanto intervenuti per separare persone che stavano già, diciamo, litigando. Per questo chiamano in ballo anche altre figure che ancora non sono emerse tra le iscrizioni e degli indagati che non sono state arrestate, ed è per questo che da ambienti investigativi filtra l'ipotesi di ulteriori iscrizioni nel registro degli indagati. Cioè, nel momento in cui vengono portate all'attenzione degli inquirenti il possibile ruolo delle testimonianze col possibile ruolo di altre persone, è evidente che questo prelude a ulteriori iscrizioni per poter fare tutte le diciamo verifiche successive. Certo. Nel frattempo, come ricordavi, appunto ci sono le versioni date come linea difensiva dai quattro indagati, cominciare dai due fratelli, che dicono che stavano facendo sesso in una zona vicino al cimitero, che erano stati chiamati dagli amici per rientrare a casa. Dall'altra parte, appunto, ricostruzioni dei testimoni che fin dal primo momento avevano raccontato invece dell'aggressione contro Willy Monteiro Duarte, con colpi che richiamavano quelli dei movimenti di arte marziale. Dunque, dinamiche che ancora restano da definire, ma in ballo, dietro tutte queste versioni diverse, soprattutto della difesa, c'è, ricordiamolo e spieghiamolo anche ai nostri ascoltatori, il timore per gli indagati che l'accusa, già di per sé molto pesante, possa diventarlo ancora di più con la contestazione dell'omicidio volontario e addirittura anche premeditato. E c'è un ascoltatore che dice: è stato assassinato, cazzo lo volete dire? È stato assassinato, nessuno, certo, ha negato questo, ci mancherebbe. Ci piove, ecco. Questo... Ma questo l'abbiamo detto fin dal primo momento, sono chiaramente, giorni che stiamo raccontando. Diciamo l'omicidio di Willy, parliamo dell'omicidio di Willy, non è che diciamo il ferimento di Willy o altro. Insomma, Monteiro Duarte, certo, Monteiro un ragazzo Duarte. Di 21 anni che è stato ucciso di botte, pestaggio a pugni e a calce mortale. Per motivi che ancora non sono da stabilire, da accertare, sicuramente innescati da una rissa diciamo favorita da alcol, da apprezzamenti dati pare da uno dei quattro indagati. Però diciamo con delle modalità, Raffaella, che evidentemente non sono diciamo del momento, così improvvisamente un rapto, insomma, di qualcuno che era abituato anche a usare la violenza in questo modo. Quello no? che sappiamo è che questo povero ragazzo è stato ammazzato con una ferocia che veramente inaudita e che reclama giustizia per la sua vita fermata a 21 anni. Questo purtroppo è l'unico fatto inoppugnabile. Certo. Sono state fermate queste quattro persone che in questo momento, come linea difensiva e legittimamente, stanno cercando progressivamente di ridurre il proprio ruolo rispetto alla presenza in quel momento sulla scena del crimine, quindi della quindi dell'aggressione, e compito dei magistrati sarà quello proprio di delineare, di diciamo liberare quello che è la legittima linea difensiva per arrivare poi alla verità dei fatti. Ecco, questa è la difficoltà di questo momento. Infatti un'altra ascoltatrice, io Roberta, non chiamarli individui, sono bestie, certo io li chiamo individui perché già dire persone quasi mi sembra troppo, ecco, dire ragazzi addirittura sembra sminuente, li chiamo individui ma sono sicuramente dei miserabili, comunque poi si accerteranno di ognuno le responsabilità, Raffaella. C'è anche da dire, Roberta, che comunque come dire, noi in questo momento dobbiamo prendere atto sempre, anche di quella che è la loro linea difensiva, per la presunzione di innocenza, anche se insomma le cose sembrano sono stati arrestati, ecco. Ci sono dei gravi indizi nei loro confronti, però bisogna anche prendere atto della loro linea difensiva, della versione data dai loro avvocati, convinto di poter dare testimonianze diverse rispetto a quelle raccolte dagli investigatori, di altre delle persone che erano presenti sul posto, quindi il fatto stesso che ci possano essere degli altri indagati è indizio di un'indagine che è un po' più complessa, insomma, più infatti complessa, per esatto. Per chiudere invece, Raffaella, ricordiamo che ci saranno sabato a Paliano, dove viveva Willy, i funerali, e che la famiglia ha chiesto alle persone che parteciperanno, intanto non vogliono giustamente telecamere, giornalisti, ma le persone che parteciperanno, una maglia bianca, una camicia bianca in segno di purezza, dicono anche della gioventù, così esatto, della vitalità e del coraggio in qualche di Willy. Modo. Certo. Esatto. Grazie Raffaella Calandra. Ciao Raffaella, ciao, buona serata. Grazie a te, ciao, buonasera. Adesso ci prendiamo una pausa di riflessione per i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure continuate al 349-238-6666, che è la pagina per i WhatsApp. Torno ratta con la Folgore, dovremo raggiungere tra pochissimo il presidente della regione Piemonte. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, come sempre siete al posto giusto, nel momento giusto, in modo che un giorno non potrete dire io questa non la sapevo a proposito di una notizia importante, perché qua ve le racconto tutte nella sintesi della giornata all'inizio e poi alcune di queste le approfondisco con gli ospiti, come farò adesso. Per esempio, prima abbiamo parlato appunto dell'inchiesta sull'omicidio di Willy, adesso va detto che siamo a meno 4, non di temperatura, anche se con la temperatura purtroppo volenti o nolenti in qualche modo c'entra, perché mancano 4 giorni alla riapertura, quella ufficiale del 14 settembre della scuola. Ne stiamo parlando un po' tutti i giorni perché ovviamente è di cruciale importanza dopo 6 mesi questa ripartenza, e perché è un banco di prova importantissimo per il governo, tra impegno, misure di sicurezza, tante incertezze, e soprattutto è un delicato test un po' per tutta la collettività, naturalmente, no? Il fatto che riparta la scuola e che la vita riprenda, quindi a seguire il corso che gli abbiamo dato, che per noi è così importante. Ieri c'è stata una lunga conferenza stampa di cui abbiamo parlato, di Conte sul ritorno nelle aule con la ministra Azzolina, la ministra De Micheli e il ministro della Salute e Speranza, in cui Conte ha riconfermato che la riapertura ufficiale sarà il 14 settembre, quindi lunedì, ha detto che il governo ha fatto il massimo per far ritornare ragazze e ragazzi a scuola, una grande sfida l'ha definita per il sistema Italia. Oggi però il clima comincia già a essere molto caldo, già al di là di tutti i timori e preoccupazioni e incertezze, l'Unione Studenti ha annunciato una manifestazione di protesta il 25 e 26 settembre, dichiarando che a qualche giorno, leggo, dalla riapertura ancora troppo poco è stato fatto dal governo, mancano i trasporti, i lavori di edilizia leggera, non bastano la dispersione scolastica alle stelle, il numero dei docenti è insufficiente, non è abbastanza. Intanto ci sono poi particolari ordinanze per aprire la scuola di varie regioni, di vari comuni, eccetera. In Piemonte è in corso una polemica per l'ordinanza del presidente della regione Alberto Cirio sulla misurazione della temperatura agli studenti all'entrata della scuola. Voi sapete, l'abbiamo ripetuto in questi giorni, che in realtà il governo ha affidato alle famiglie la misurazione della temperatura dei figli prima che vadano a scuola. E a reagire, diciamo, negativamente a questa ordinanza di Cirio è il direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, Fabrizio Manca, secondo il quale l'iniziativa, ha detto, è tardiva, inappropriata e ingenera confusione. Dice Manca, verrebbe da dire che lo Stato ha fiducia e crede nella responsabilità genitoriale. La nostra regione, quindi il Piemonte, dice evidentemente no. Non ha fiducia nelle famiglie? Presidente Cirio, buonasera intanto, benvenuto. Ma buonasera a voi, io ho fiducia piena nelle famiglie del Piemonte, però io credo che in un paese normale la febbre viene misurata a scuola. In un paese normale in cui all'interno delle aziende i lavoratori viene misurata la febbre, all'interno degli uffici pubblici e degli uffici di servizi viene misurata la febbre, all'interno degli ospedali viene misurata la febbre, all'interno delle scuole dove ci sono ragazzini vulnerabili, bambini che al pomeriggio trascorreranno poi la giornata con i loro nonni, che ancora sono soggetti ben più vulnerabili, a questi la febbre non viene misurata. Io trovo che questo sia un non senso. Ho chiesto durante il dibattito all'interno della conferenza delle regioni che il governo lo prevedesse come obbligatorio in tutta Italia, il governo ha preferito affidare alle famiglie questa incombenza e io ho semplicemente detto: bene, se il governo dice che lo facciano le famiglie, almeno la scuola controlli che le famiglie lo hanno realmente fatto. E quindi ho scritto un'ordinanza che dice semplicemente che quando un genitore al mattino misura la febbre, che Conte ha detto che deve essere misurata dalla famiglia, lo scriva sul diario, lo scriva sulla chat della classe, lo scriva sul registro elettronico, utilizzino il metodo più rapido e veloce, ma che la scuola si accerti e si sinceri che la febbre è stata misurata. Perché mandare un bambino con la febbre in una scuola vuol dire mettere a rischio non solo tutti gli altri bambini e tutta la scuola stessa, ma soprattutto i nonni che stanno a casa e che poi con quel bambino vivranno il pomeriggio. Presidente Cirio, quindi io infatti mi chiedevo, no, siccome ieri avevo letto che lei aveva parlato di un diario da compilare in modo obbligatorio da parte delle famiglie di giorno in giorno con la temperatura dei figli, pensavo che fosse in contraddizione poi col fatto che invece la scuola, secondo la sua ultima ordinanza, che deve misurare. Invece le due cose vanno insieme, cioè vuole che ci sia un'autocertificazione sul diario da parte delle famiglie, ma poi una volta che il bambino o il ragazzo arriva a scuola vuole che sia la scuola poi a certificare che effettivamente con termoscanner non abbiano la febbre, questo? È questo, ma io non credo di chiedere una cosa assurda. Le ripeto che in fabbrica si va misurando la febbre. Non vedo perché in una scuola non si debba andare accertando che uno la febbre l'ha misurata. Si mette a rischio davvero tutti gli altri bambini che magari l'hanno misurata, perché affidare la sensibilità delle famiglie, di cui io ho piena fiducia, ma ne basta una che abbia l'idea che il Covid non esiste, come leggiamo molto spesso da qualche parte, e che abbiamo qualche negazionista che dice: ma io la febbre a mio figlio non la misuro, e se nessuno controlla, come facciamo a essere sicuri che invece tutti gli altri bambini a cui la famiglia ha misurato scrupolosamente la febbre siano certi di essere in un luogo sicuro quando sono a scuola? Per questo io chiedo una cosa di buon senso e trovo davvero assurde tutte queste polemiche. Le ripeto, in un paese normale già dovrebbe misurarla la scuola come fanno negli altri paesi europei. Da noi si è voluto farlo fare alle famiglie, bene, io mi adeguo, ma la modalità in Piemonte è che qualcuno controlla che la famiglia effettivamente lo faccia. Presidente Cirio, però io devo ammettere, lo ammetto, che sono d'accordo con lei sul fatto che dovrebbe essere la scuola, questo è un mio parere personalissimo, però mi sono posta anche il problema. Evidentemente quando arriva questa, soprattutto in certi plessi scolari, questa massa di ragazze, di ragazzi, di bambini, eccetera, cioè riescono all'ingresso della scuola gli addetti, insomma, a misurare a tutti la temperatura quando suona la campanella, cioè è possibile, non si crea confusione come denuncia, come lamenta il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, cioè non c'è il rischio? Ma guardi, se in Italia si fosse iniziato a pensare all'apertura delle scuole a giugno e non a fine agosto, come ha fatto il governo, probabilmente si sarebbero dotate alle scuole dei termoscanner. Non si è fatto, io non dico che vada fatto, io dico andava organizzato prima, mi è stato detto che non è possibile e io mi adeguo alle decisioni del governo, ma dico adeguandomi, cioè non prendetegliela all'ingresso se non riuscite, ma il bambino va a scuola, si mette la sua mascherina, quando si siede nel banco, apre il diario, la maestra, mentre controlla il diario che già deve controllare, verifica che il bambino abbia una firma in cui gli hanno scritto febbre ok, non ha la febbre, non è che è necessario scrivere quanto ha, è necessario certificare che non ce l'ha. È un adempimento che non credo crea assembramento, ma crea certezza e crea sicurezza. E le dico una cosa in più, se io non facessi l'ordinanza, se io la mia ordinanza la cancellassi, lunedì mattina mio figlio si presenta a scuola e all'ingresso della scuola dice mio papà si è dimenticato di misurarmi la febbre. Che cosa fa la scuola? Lo manda indietro? Allora è vero come dice lei che da una parte anch'io ho pensato qualche genitore che si dimentica, che è di fretta, che deve andare a lavorare, qualcuno invece, qualche negazionista come sappiamo ci sono. Però allora faccio l'avvocata del diavolo, presidente Cirio, e le chiedo, come lei dice che appunto già a giugno il governo avrebbe dovuto stabilire e predisporre eccetera eccetera, lei come mai a 4 giorni dall'inizio della scuola decide che è la scuola che deve misurare la temperatura? Ma la competenza della scuola non è mia. Fosse mia, mi creda che come abbiamo fatto sui trasporti, che abbiamo fino all'ultimo giorno chiesto di avere delle regole chiare, e se il presidente Bonaccini non si impuntava per ottenere una voce chiara e certa sull'occupazione dei trasporti, saremmo ancora qua a discutere se i treni, i pullman ci saranno o non ci saranno per i ragazzi. Noi abbiamo cercato in queste settimane di dire al governo, io per primo, misurate la febbre a scuola. Mi è stato detto di no. Ho provato ancora in queste riunioni che stiamo facendo quotidianamente in Regione Piemonte a trovare soluzioni alternative con la Protezione Civile, con la Croce Rossa, individuando forme diverse, e non le sono state trovate e io alla fine a 4 giorni mi sono trovato con l'unica arma dell'ordinanza, ma che ripeto non credo crei difficoltà particolari. Ci sono chat di classe dove i responsabili di ogni classe possono ricevere il messaggino di ogni mamma o di ogni papà che dice febbre ok. Ci sono registri digitali dove si vanno a vedere i voti e dove i genitori possono scrivere ho misurato la febbre a mio figlio. Non è una questione così difficile, lo fanno tutte le aziende d'Italia, lo fanno gli uffici pubblici e non lo facciamo dove ci sono i nostri bambini? Allora, Rossella, che è un insegnante, dice direi che uno scanner non è poi così, il costo non è poi così elevato, insegnato fino a giugno, dice si poteva spendere invece che per altre cose. Mentre un altro ascoltatore dice, caro presidente Cirio, la febbre va misurata a casa per un semplice motivo, così l'alunno non parte per andare a scuola, ma già si vede a chi è affidato oppure rimane a casa. Insomma, poi varie opinioni delle ascoltatrici e degli ascoltatori. Senta, che ne pensa della manifestazione di protesta indetta dall'Unione Studenti per il 25 e 26 settembre? Penso che sapremo lunedì se hanno ragione o no. Purtroppo le avvisaglie ci sono tutte. Noi ogni anno iniziamo l'anno scolastico in Piemonte con migliaia, ripeto, migliaia di cattedre vuote, cioè non abbiamo gli insegnanti. Abbiamo detto che quest'anno non ce lo saremmo potuti permettere perché non era solo un problema di didattica, quest'anno è un problema di sicurezza. Ci sono state date le rassicurazioni, vedremo lunedì se saranno realizzate, ma i dubbi rimangono sui banchi, i dubbi rimangono sulle mascherine, le dotazioni delle mascherine che dovrebbero arrivare dal governo. Quindi ci sono ancora tanti punti interrogativi, ma io con grande rispetto istituzionale lavoro tutti i giorni per risolverli questi problemi. Ma mi creda, non misurare la febbre a un bambino è una questione di buon senso, non è una questione né sindacale né di competenze. Un bambino che va a scuola con la febbre è un rischio che non possiamo permetterci. Senta, a proposito di docenti invece di test serologici eccetera, vedo una notizia di adesso dalle agenzie, quasi il 50% del personale della scuola, pari a circa 500.000 tra docenti e non docenti, ha svolto il test sierologico per il Covid-19 e di questi il 2,6%, circa 13.000 persone, è risultato positivo e non prenderà servizio fino a quando il tampone non darà esito negativo. Insomma, comunque lei sa che anche in Francia stanno richiudendo alcune scuole, ci sono migliaia di contagi, sarà inevitabile, insomma, come ha detto la ministra Azzolina, non c'è il rischio zero, non ci può essere il rischio zero. Per chiudere, Presidente Cirio, che ne pensa dell'educazione fisica lei a scuola? Guardi, questa è una polemica che oggi qualcuno ha voluto creare. Guardi, io sono di Alba, quelli di Alba come me guardi, sono mi perdoni Cirio, spiego solo alle ascoltatrici e agli ascoltatori di cosa si tratta. Spieghi, siccome lei oggi è stato all'inaugurazione del primo parco in Piemonte per bambini e ragazzi, per l'attività sportiva appunto, sì. E lei ha detto nel ventennio c'era talmente cura del corpo e talmente attenzione alla ginnastica che per reazione quando è caduta la dittatura è stata quasi cancellata e questo è un grave danno. Però poi lei ha dato una giustificazione, siccome molti l'hanno attaccata dicendo cos'era una nostalgia del periodo fascista, lei invece ha detto no, nel mio DNA. Ma stiamo scherzando? Ma io sono antifascista nel midollo, io sono di Alba. Sono antifascista per storia, perché lo era mio padre, perché era la mia famiglia, lo erano i miei nonni. Sono antifascista da sempre e quindi queste polemiche le rimando totalmente al mittente. Mi è stato detto di spiegare perché nella scuola italiana non si insegna ginnastica nelle elementari. E dal momento che io facevo l'assessore all'istruzione, mi ero documentato e avevo studiato la storia, era accaduto per questo. Perché in quel ventennio terribile, che fortunatamente è finito, era talmente stata esasperata la cura del corpo che poi dopo l'hanno cancellata dalla scuola. E quindi questo è il problema, che nella scuola italiana dovrebbe farsi più ginnastica, ma senza nessun tipo di nostalgia. Alberto Cirio è antifascista nel cuore, nel sangue, lo saranno anche i miei figli. Chiarissimo, inconfutabile. Vediamo e speriamo che tutto parta bene anche per voi, per il Piemonte, il 14 settembre con la scuola. Buon inizio allora, Alberto Cirio. Grazie Presidente. Grazie mille, buonasera a voi. Grazie, buon lavoro. C'è la viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Era la cosa più bella che avessi mai letto. Io ricevo una chiamata di Peppino Amate, che all'epoca era un grandissimo produttore. Si tratta probabilmente del film più costoso prodotto in Italia fino a quel momento. Padre Pio ha detto sì, ha detto che la devo fare. La verità sulla dolce vita, un mito italiano che sbarca a Venezia ma in veste di un documentario fuori concorso che racconta la complicata genesi di quello che è stato il capolavoro di Fellini, che adesso ci racconta la nostra Marta Cagnola da Venezia, perché tra poco deve rientrare in sala. Marta. Sì, tra poco ho la proiezione di un film a zero in concorso. Allora, La verità sulla dolce vita è un film molto particolare perché noi pensavamo di sapere tutto della lavorazione della dolce vita, ma una cosa che tendiamo a dimenticare è fu il produttore era Peppino Amato, un produttore famosissimo però quasi dimenticato perché scomparve poco dopo La dolce vita, e altri non era che il nonno di Giuseppe Pedersoli, che ha girato questo documentario. Il cognome qualcosa ci dirà, anche perché è anche il figlio di Bud Spencer, Giuseppe Pedersoli, che era il vero nome, che ha ritrovato, certo, che ha ritrovato dei documenti assolutamente inediti, rimessi in scena, anche recitati, sulla nascita di questo film e sull'importanza della figura del produttore nel realizzare il film più costoso possibile, un capolavoro voluto fortemente da un produttore. Che insomma poi ha fatto il giro del mondo, è diventata La dolce vita un'icona, un tormentone, una rappresentazione, un simbolo anche dell'Italia, soprattutto dell'Italia di allora. Marta, prima di fuggire in sala, si comincia già a fare il Toto Leone, no? Chi vincerà questo Leone d'Oro di questa 77esima edizione della Mostra di Cinema di Venezia? Allora, indovinare il Leone d'Oro non è facile perché, come tutti i premi dati dalle giurie, e le giurie non composte da molte persone, insomma, bisogna cercare di capire cosa c'è nella testa dei giurati. Devo dire che sta prendendo quota questo film che è stato proiettato oggi, che è Nuevo Orden, un film messicano, che racconta una realtà distopica, una rivolta in Messico, in cui nessuno esce vincitore, perché è un film brutale, tragico, scritto benissimo, molto violento, ma che potrebbe meritare qualcosa. Bene, staremo a vedere, ci collegheremo domani. Ci sei, giusto Marta? Ci devi raccontare anche domani, domani venerdì. Certo, ti lascio andare in sala, buon cinema. A domani, grazie, Marta Cagnola da Venezia. Presto. Ciao Marta. E adesso invece dobbiamo collegarci con gli Stati Uniti, dove c'è il nostro Riccardo Barlam. Ci sei, Riccardo? Eccoci qua, ciao, buonasera a tutti gli ascoltatori. Riccardo, diciamo che una cosa certa è che con Trump non ci si annoia mai, non ci si è mai annoiati in questo suo mandato, no? Ecco. No, assolutamente, lui con un tweet il pollice facile è capace di cambiare, come dire, gli equilibri mondiali. Ma non solo con un tweet, ma anche semplicemente con le dichiarazioni a un giornalista che non è un giornalista qualunque, tra l'altro, ma è Woodward. Che è il famoso giornalista del Watergate, che fece dimettere Nixon, no? E a lui ha fatto delle dichiarazioni così a cuor leggero, uno dicendo Trump, dicendo che effettivamente ha minimizzato apposta a proposito del coronavirus, quando sapeva invece che era 5 volte più letale di una normale influenza. Questa, secondo me, è la cosa più grave, al di là delle elezioni, di chi vincerà, della politica, ma lui ha una responsabilità su migliaia di morti. Qui ci sono 200.000 persone che sono morte. Io ricordo Herman Cain, uno su tutti, questo manager repubblicano che è andato a Tuzla su sua indicazione senza mascherina, si è ammalato ed è morto. E così in America, ma anche in tutto il mondo, stanno a sentire quello che dice il presidente americano, che è il presidente della prima potenza mondiale, e questa cosa che lui ha detto: ho minimizzato tutto perché per non scatenare il panico. Vi ricordate che voleva riaprire le chiese a Pasqua, sarebbe passato continuava a dire che è l'isteria collettiva, che sì, non era vero, che l'America non poteva chiudere col caldo, passava tutto. Insomma, lì c'è una responsabilità davanti, se vogliamo, storica, che diranno gli storici di come è andata qui la pandemia, che è stata gestita malissimo. Forse è uno dei motivi per cui rischia di perdere il secondo mandato, probabilmente. Ma non è ancora detta l'ultima parola. Comunque l'altro, no, grande giornalista del Watergate, Carl Bernstein, ha detto: lo ascoltiamo insabbiare questa grave emergenza nazionale, questo forse è il più grande crimine presidenziale di sempre, abbiamo la pistola fumante della registrazione di un presidente che lo commette, anche perché questa intervista è stata registrata consensualmente, no? da Woodward. Sì, lui è il secondo libro che lui scrive su Trump, il primo qualche anno fa si chiamava Fear, paura, e vi ricordate, rivelò per esempio che a un certo punto nella Casa Bianca c'erano i generali che, quando c'era qualche dossier scottante, gli nascondevano le carte sul tavolo per non fargli firmare, perché c'era di mezzo, che ne so, la Corea del Nord, dei dossier un pochino, come dire, imbarazzanti per gli Stati Uniti, le facevano sparire e lui non se ne accorgeva. Questo libro si chiama Rage, rabbia, uscirà il 15 settembre. Oltre a questa ammissione diciamo di aver minimizzato la gravità della pandemia, e ho visto che anche oggi in Italia ci sono notizie preoccupanti su persone famose che si sono ammalate, e c'è questa rivelazione di una cosiddetta arma nucleare super segreta di cui lui parla, neanche Putin sa niente. Secondo le rivelazioni di alcuni giornali di settore, sarebbe un missile nucleare balistico di nuova generazione, un mini ordigno che è pensato per, in qualche modo, per arginare la potenza nucleare russa. Ma non è chiaro. Secondo te perché l'ha detto così a cuor leggero? Per incontinenza? Perché vuole far arrivare il messaggio alla Russia e alla Cina di state attente? Perché si va a votare, perché lui ha evitato il servizio militare facendo finta di avere i piedi storti. E la scorsa settimana, ricordate, al Pentagono ha creato tutta una serie di polemiche perché sono venute fuori queste rivelazioni che lui avrebbe detto che non andava durante la cerimonia della NATO per l'anniversario della guerra, aveva detto che non andava a un cimitero militare a Parigi perché erano dei perdenti. Senti, degli soldati americani morti. Esatto, allora, si illuminava il ciuffo. Lui però ha risposto a Woodward. Però ci sono le elezioni. Però lui ha risposto a Woodward: perché se aveva le mie dichiarazioni così scottanti da molti mesi non le ha rivelate a lui, rivelate lui perché erano sbagliate o pericolose? Il giornalista si è difeso dicendo: ho raccolto queste ammissioni di Trump a inizio febbraio, non conoscevo quindi la fonte delle sue informazioni e non c'era una situazione allarmante. Dice, con quello che dice Trump bisogna sempre prendere con le pinze, perché no, certo, però vero. Lui fa comodo in questa fase, fa la parte del leader autoritario, del leader che la potenza americana che è muscolare, quindi dire che c'hanno l'arma segreta in qualche modo in certe frange degli Stati Uniti gli fa acquisire sì, no, ma anche del virus, no? Accusava Woodward di non averlo detto lui allora, però Woodward ha detto: non sapevo, diceva queste cose ma non avevamo ancora evidenza di quello che succedeva, lo sapeva il presidente ma io non sapevo se fosse, da che fonti arrivavano queste cose. Ci dobbiamo lasciare, insomma, comunque avremo modo di raccontare tante altre cose da qui al 3 novembre quando si vota per le presidenziali. Grazie da New York al nostro Riccardo Barlam. Ciao Riccardo, un abbraccio. E ci risentiamo brevemente alle 22.